Sentieri. Percorsi tematici per esplorare l'universo multiculturale della Campania. Benvenuti cari amici ad una nuova puntata di Radio Antenna Migrante. Oggi alla voce ascolterete per la prima volta il vostro caro tecnico del suono, che di solito sta dietro le quinte a manovrare un po' di suoni e un po' di magie nel suono. Oggi vi parlo al posto di Giulio Scalona, che salutiamo, in compagnia di Marco Bruno. Ciao Marco! Ciao Tony, ciao! Io vi... a tutti gli ascoltatori di Radio Migrante! Oh, grazie. Io vi voglio presentare Marco. Marco è un orgoglio del nostro Cilento, perché lui è cilentano doc, vero Marco? Sì. Sono nato a Vallo della Lucania. È residente a Piaggine. All'ospedale. Come tutti noi. Che ecco, bello appunto. Marco, che bello questo incontro, oltre che sulla scena, perché dovete sapere che io e Marco ci conosciamo già da un po'. Marco è un cantautore cilentano, nonché grande batterista, a mio avviso, essendo io un bassista. Apprezzo molto la sua qualità ritmica, nonostante sia un grandissimo cantautore. In merito a questo, ti volevo fare subito una domanda, così i nostri ascoltatori dicono: ma perché hai chiamato Marco Bruno? Perché Marco Bruno in questo periodo ha pubblicato un fantastico brano, si chiama Pena Caramella. Marco, ci vuoi far ascoltare qualche nota del tuo brano? So che sei in compagnia di un tuo strumento fedelissimo. Vabbè, faccio il ritornello, va bene? Ci fa piacere. Grazie Marco, fantastico. A me piace molto, oltre l'intuizione della melodia, perché è bellissima, anche il testo, il significato del testo. Come sei entrato in questo mondo di questo testo, ecco? Diciamo che il testo di che parla? Parla, insomma, della guerra, ma non della guerra, diciamo, del perché succedono tutte queste, sempre non finisce mai la guerra, non finiscono mai questi conflitti che ci sono, e perché continuano ancora a fabbricare le armi, le vendono, queste cose qua, cioè questi interessi, tutti questi motivi che scatenano queste cose, quando vogliamo fare in modo che finiscano? E mi sono reso conto, questa canzone ha più di un anno, quindi non è che l'ho fatta in occasione di questa situazione che c'è. Bene. Voglio dire, nonostante sia capitata questa cosa adesso del Covid, io sono sicuro che quando finirà tutto, non si sa quando chiaramente, non abbiamo capito ancora niente, perché già si parla di mettere in moto tutta la macchina delle fabbriche e quant'altro. Cioè, vogliamo capire, cioè adesso che oggi dicevano che televisione che in Cina l'inquinamento si è ridotto, in Italia pure, nel mondo si è ridotto l'inquinamento con questo coronavirus, perché insomma si sono fermate un po' di cose, e adesso che facciamo? Riprendiamo un'altra volta tutto com'era. Certo, qualche giorno fa ho messo un post su Instagram che diceva: se non cambia niente, non è servito a niente. Lo trovo giusto. Quindi diciamo che il succo della canzone è questo. Poi, insomma, il ritornello è cantato dai bambini, quindi un altro segnale forte. che sono i bambini, a far capire che dovrebbe cambiare qualcosa. Assolutamente sì, si sta andando verso solo una crescita senza il vero progresso, poi, che il nostro benessere è quello del pianeta, Sì. fondamentalmente. Mo adesso, insomma, parlano di questo 5G, non lo so che cosa. Vabbè, Mo. questo è un ragionamento un po' più ampio di come funzionano quelle frequenze, che almeno. Alcuni dicono che fanno male, che fa male, altri dicono di no, non si capisce. Beh, però almeno ci spiegassero le cose in modo che le Certo, c'è capiamo. poca informazione e noi come Radio Antenna Migrante magari faremo un'intervista ad un signore che tu conosci benissimo, che si chiama Liberato Merola, in merito a questo fenomeno di queste frequenze, se è Ecco, vero e lui. se non è vero. Sì, Comunque, Marco, certo. a me piace molto il video che hai fatto. L'hai re realizzato insieme a Valentino o ha fatto solo la regia? Allora, in realtà le riprese le hanno fatte tutti i ragazzi che hanno partecipato in casa, perché questo è stato girato qualche giorno fa, e non molti giorni fa, forse una decina di giorni fa è stato girato. Ovviamente, con le E siccome restrizioni. c'è questo problema delle restrizioni, insomma, mi è venuta questa idea anche grazie a Pietro Manganelli, devo dire, perché non so se conosci Pietro Manganelli. No, di. Il proprietario della panoramica di Giungano, la pizzeria, nonché l'organizzatore della festa dell'antica pizza Sì, cilentana, festa allora lo dell'antica pizza conosco cilentana benissimo. di Giungano. Ok. Ecco, lui mi chiamò una mattina e mi disse: Marco, gli fece ascoltare il pezzo, perché nel pezzo ha cantato anche lui e le figlie. Che bello. Quindi glielo feci ascoltare, mi disse: Marco, perché non lo pubblichi? Ma dico, lo pubblico senza un video, non ha senso, perché insomma l'immagine è pure importante. Certo. Però parlando con lui mi venne in mente, ma quasi quasi lo faccio fare alle persone in casa, ed è anche un modo, una cosa un po' particolare, innovativa per anche, insomma, Sì, dal punto di vista, ecco, manifestare questo disagio che c'è, diciamo, delle persone chiuse in casa. di dare E voce da anche a qui loro. sì, ho contattato tanti miei amici, e a dire il vero hanno partecipato quasi tutti. Quindi ho dovuto dare delle direttive, perché chiaramente non è che fanno il video così, insomma, metti l'orizzontale, imposta il Vabbè, certo, telefono, ci perché un sono. cellulare l'hanno fatto. Ci Insomma, ci vuole. sono riusciti tutti. Ho mandato tutti le clip a Valentino, Sì. e Valentino lo ha montato. Lui ha fatto il montaggio. Perfetto, Valentino ha fatto il montaggio. Salutiamo anche Valentino Manganelli. Certo, è stato bravissimo. Infatti, visto, insomma, il Sì, risultato, infatti. nonostante le riprese fatte in casa, No, che non proprio. sembra, devo dire che non sembra che siano fatte in casa. Cioè, quindi le direttive che avete dato sono Sì. state ben recepite e hanno funzionato alla grande, se posso. C'è stato il lavoro dietro, perché poi Sì. tante persone gliel'ho dovuto far rifare, perché o mettevano il telefono verticale oppure non avevano impostato il cellulare, cioè, quindi comunque c'è stato un lavoro dietro. Ottimo, ottimo. Vabbè, capita, sì, purtroppo non siamo tutti tecnici, Beh, certo. quindi bisogna Però, dare le diciamo, è direttive. stata gestita bene. Devo ringraziare anche Maria Grazia De Cesare, che mi ha aiutato in questa cosa. Benissimo, grande. Lei, una parte di queste persone se l'è gestita lei, Ah, un'altra parte me la sono gestita io. E quindi siamo benissimo. riusciti a mettere insieme tutte le cose. Poi Valentino è stato bravissimo e velocissimo. E abbiamo fatto questa cosa molto carina. Senti Marco, io so che oltre ad essere cantautore, musicista, batterista, sei stato o sei ancora operatore, No, di allora piaggine. c'è un errore. Hanno pubblicato, cioè, un articolo, ma poi anche, diciamo, la Rete 7, giusto? La TV di Vallo, Sì. insomma, ha detto che sono dello SPRAR. Invece, non è proprio così. Io sono stato un operatore sociale, del CAS, che Ah, adesso ok. però è chiuso. Ma lavoro ancora nel sociale perché sempre con la RADA io adesso sto facendo l'assistenza specialistica nelle scuole, scuola media e scuola elementare, per i ragazzi che hanno delle difficoltà. Quindi lavoro sempre con la RADA e sempre nel sociale. Però lavoravo con i migranti nel CAS, non con lo Perfetto. SPRAR. Giusto precisare questa cosa perché. No, è giusto, come no. Ci vuoi raccontare qualche aneddoto su particolare, su Allora, qualcuno? che dite? Adesso proprio oggi ti dico allora, che stamattina io sto preparando una canzone che è già finita, però volevo mettere qualcosa di particolare. E ho chiesto a uno dei ragazzi che è stato qui nel CAS e nello SPRAR, prima nel CAS e poi nello SPRAR, adesso è uscito, diciamo, dallo SPRAR. Perfetto. Non molti giorni fa. E gli ho chiesto di tradurmi una frase della canzone in mandinga e in fula. Bellissimo. E adesso sto cercando di inserire questa cosa in questa canzone. Quindi vedi, i rapporti poi non finiscono, è un modo per aprire gli orizzonti. E quindi, insomma, scoprire cose nuove, cioè, che sono venuti qua questi ragazzi, è stata una cosa positiva e non negativa, ecco, Beh, ce lo stanno come molti vorrebbero. dicendo in tanti questo fatto che comunque l'arrivo di queste persone ha cambiato la vita nelle comunità, in positivo Certo, ovviamente, in positivo. sì, è vero, è vero. Ed è una Si cosa riscoprono un bellissima. po', si riscoprono un po' tante cose che si erano nascoste dentro di noi. È tipo, non so, la cordialità, nel senso che già pensare che queste persone vengono hanno affrontato il mare, il deserto, queste cose qua. Allora dentro di noi, insomma, c'è qualcosa che esce fuori, che era represso, e quindi questa voglia di essere cordiali, di aiutare, esce fuori. E meno Hai male. capito, Tony? Meno Sì, male. poi c'è una parte delle persone che non, che purtroppo sono un po' così diffidenti, però la maggior parte devo dire che accettano e poi cercano anche di insomma, interagire. Quindi è positivo. Ottimo. Adesso, per esempio, con questo video ci sono tante cose. Un altro ragazzo che anche chiaramente è andato via perché il cassa è chiuso, mi ha mandato un vocale dove disperatamente dice: Marco, ma perché non mi hai fatto partecipare anche a me? Ha Ovviamente lo detto, ma inserirai tu in un non mi altro pensi video. più, ha detto, tu non mi pensi più, non mi pensi più. È dispiaciuto, lo so, capita. Purtroppo Sì, è nell'essere umano l'affezionarsi e soprattutto chi poi è più predisposto ad essere empatico. tra l'altro, Tony, guarda, io se vuoi te lo faccio ascoltare perché veramente, cioè, ma proprio per far capire Sarebbe che queste fantastica sono questa persone. cosa. Eh sì, forse non dovrei, però mi fa piacere farla ascoltare questa cosa perché faccio, cioè, per far capire che comunque sono persone che comunque hanno dei sentimenti forti quando si affezionano alle persone. Guarda, questo è il nostro pane quotidiano. Noi siamo la radio per dare voce a queste cose. Non potevi trovare luogo migliore. Allora senti, senti. Vai, vai. Oh, babbo, Marco mio, io piango, che bella musica, non ci sono dentro, Marco, io piango, se tu piango, la prossima volta fammi sapere, io devo venire a piadini e cantare come te. Capito, capo mio, non mi ho dimenticato la prossima volta. Io piango sempre, visto questa canzone, sono bellissimo. Grande, Sì. grande. È qualcosa di Fantastico. fantastico, sì. Quando Marco. poi ti accorgi che il lavoro fatto non è stato un lavoro che poi è finito là, Sì. ma poi rimane, vedi, il lavoro poi rimane perché le persone si ricordano No, ma sono insomma, ti scambi. gratificano facendo queste cose, che sono piccole cose, però No, sono grandi cose a mio avviso. Ultimamente ho pure io un po' a che fare con loro e quindi ci si ritrova nella semplicità più assoluta e nel riscoprire dei momenti e delle azioni che nel quotidiano ti fanno stare bene. Sì. Marco, io ti ringrazio. Questo era un approfondimento per dare voce a noi della regione e quindi abbiamo pienamente diritto ad essere riproposti da Radio Antenna Migrante. Vogliamo chiudere insieme con un po' del tuo brano, così facciamo venire la voglia ai nostri ascoltatori e ricordiamo soprattutto che possono vederlo su YouTube oppure sul tuo canale, Marco, che è Sì, proprio. allora sì, e questo è importante. Ricordiamo Andate ad ascoltare il pezzo su YouTube e iscrivetevi al mio canale. soprattutto, Ecco, ragazzi. questo è importante, perché altrimenti non, il pezzo non gira e insomma è bello farlo sentire. Certo, soprattutto per il messaggio che dà. Che dire? Grazie e alla prossima. Ciao Marco! Ciao, ciao Tony, ciao a tutti. Guerra in cielo e in terra, buona caramella, buona caramella, tutti giù per terra. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.